non c'era la possibilità di essere preso dall'elicottero, non c'era la possibilità di farsi un buco nella neve, perché lì non c'è, c'era soltanto la possibilità di scendere pezzo per pezzo sotto questo freddo, il vento, la disperazione. Non c'erano altre possibilità, dice Messner, e per tre dei quattro alpinisti francesi è la fine. Lentamente gli altri sono morti, lui non poteva caricarli in spalla e portarli avanti, è impossibile. Poteva soltanto battere la pista, poteva andare avanti, cercare la strada. Senza di lui tutti sarebbero morti, senza dubbio. Ha diretto le operazioni della discesa con molta autorità e molta umanità. Ecco, e da qui ho scoperto un uomo straordinario. Un uomo tout à fait extraordinaire. Un uomo straordinario, e a dirlo è proprio Pierre Mazur, l'alpinista che assieme grazie a Bonatti è riuscito a sopravvivere a quella terribile tragedia. Tragedia nella quale ha perso la vita anche uno dei più cari amici di Bonatti, Andrea Oggioni. Si salveranno solo in tre, Bonatti, Gallieni e Mazur. E presto si scateneranno le polemiche. Ma mentre in Italia si prospettano inchieste giudiziarie e parlamentari, in Francia la testimonianza di Pierre Mazur rende giustizia al comportamento di Bonatti. E oltralpe, per l'aiuto portato ai compagni, lo scalatore italiano verrà insignito con la Legion d'Onore. È stato eccezionale. Mi ha salvato la vita. Senza di lui sarei morto. È Pierre Mazur la prova vivente che Bonatti fece tutto il possibile per salvare quante più persone. L'alpinismo per lui è la ricerca dell'uomo, l'esplorazione dentro se stesso, e Walter vuole spostare ancora più in là il suo limite. Iniziano le sfide invernali del Monte Bianco con il granito dello sperone Walker sulle Grand Jorasses. E martedì 24 gennaio del 63 ci sono meno 20 gradi quando Walter e Cosimo Zappelli iniziano una nuova avventura. Ecco che distinguiamo Walter Bonatti e Cosimo Zappelli, che hanno superato il piccolo dietro, cioè essi si trovano ora in una posizione difficilissima, non possono più tornare indietro, devono assolutamente raggiungere la vetta, e per questo saranno ancora necessari 3 o 4 giorni. Il 27 gennaio il termometro segna meno 35. Bonatti e Zappelli salgono a 3050 metri e devono ancorarsi ad un chiodo per passare la notte. Non possono dormire o rischiano l'assideramento, ma la vetta è vicina. Dopo una lotta durata 7 giorni, conquistano la cima e tornano a valle. Ma ad aspettarli non c'è nessuno. Entrano in un bar e i clienti si voltano sorpresi. Ma non dovevate arrivare domani? Questo è quello che stava dicendo la televisione. Nel 1964 l'obiettivo di Walter è la punta Whymper, passando per il granito della parete nord delle Grand Jorasses. E assieme a Michel Vaucher, un abile alpinista svizzero, Walter e Michel tracciano una linea molto diretta e pericolosa, esposta alle cadute di pietre e di ghiaccio. È il 10 agosto quando, dopo aver toccato la cima, scendono a valle davanti a una folla incredibile. Quello di Bonatti è un alpinismo fatto di eccellenza, non solo sportiva ma anche etica, come sottolinea Michele Serra. Il primo elemento che veniva fuori era quello agonistico, cioè del grandissimo scalatore che inaugura vie nuove, che fa non solo la scalata in solitaria ma la fa d'inverno e la fa lungo una via mai percorsa da altri, quindi insomma c'era ovviamente questa eccellenza, ripeto, sportiva, e poi è venuta fuori negli anni la sua eccellenza etica anche, cioè il non accettare compromessi, il diventare simbolo di un alpinismo che non voleva farsi contaminare dalle sponsorizzazioni.